9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Poi direte, ma insomma, ma adesso che facciamo qua? Cominciamo con Enzo Iannacci. Che vi devo dire? Oramai ci dobbiamo accontentare dell'effetto scaramantico che Enzo Iannacci metaforicamente sta facendo allo spread italiano, perché siamo al punto che, come avviene ieri, dopo una nota dei ministri dell'economia spagnolo e francese che smentisce quella del giorno precedente, che non c'è stata perché i francesi dicevano mai coi puzzoni spagnoli che insieme agli italiani sono lì lì per il fallire, invece ieri c'è stata, e noi siamo tutti ad accontentarci che lo spread scende. Ma scende di quanto? Scende a quota 400, che sarebbe già tosta, ma insomma siamo abituati oramai a pensare che 400 punti base in più da pagare rispetto alle imprese tedesche per un'impresa italiana sia ordinaria. No, scende poi a quota 516, 520 rispetto a quota 540, e quindi per il momento, nella speranza che con Iannacci riequilibro un pochino questa sfiga che secondo molti io porterei, perché metto i DORS come se io non mettessi i DORS perché le cose vanno male, ma per influenzare negativamente il mercato. Vediamo un po' se anche oggi funziona così. Resta questo il tema, vengo anch'io, no tu no, nel girone di un euro che torni a essere cooperativo invece che competitivo, cioè divisivo. Su questo ormai i giornali continuano a spiegarvi come qualmente ci sia una tregua sui mercati, ma la tregua sui mercati è da non prendere troppo sul serio. Ieri la cosa positiva è che c'è stato anche il governatore Novotny della banca d'Austria a aggiungere la sua voce a coloro che sostengono, come abbiamo spiegato, che la BCE è nel breve l'unica diga che può, a patto di interpretare in senso estensivo il trattato, ma è l'unica diga che a breve può illimitatamente fronteggiare l'attacco dei mercati. E l'Austria era ed è un paese che di solito viene considerata allineata alla Germania, all'Olanda e alla Finlandia nel fronte dei duri, dei no, e quindi da questo punto di vista è un bene che il governatore della banca austriaca con la sua voce abbia contribuito a questo più incoraggiante giornata di ieri, sotto il cui segno è cominciata la giornata internazionale con le borse asiatiche, come avete sentito dal giornale radio. E la cosa singolare è come poi bastino poche ore sui giornali, sulle mercati internazionali, perché anche i media italiani cambino in qualche misura echi, toni, eh? Perché se andate a fare un rapido esame di come oggi titolano i giornali, la stampa di Torino titola con Francia e Spagna l'Unione Europea agisca, e appunto vi dà conto di tutto quello che sommariamente vi abbiamo ricordato, ma altrimenti è l'avviso di comparizione al governatore, al presidente della regione Lombardia Formigoni, ad avere molto spazio su quotidiani come Repubblica, o come Fatto, che naturalmente sfotte un po' sopra e dice ma guardate la novità, Formigoni indagato. Il Corriere della Sera preferisce puntare su ciò che a me preoccupa molto e che ieri è stato un'altra delle caratteristiche politiche invece della giornata romana: i partiti a Monti, basta sacrifici, basta sacrifici. voi direte, i partiti hanno ragione, perché in effetti è il segno della politica troppo fiscale ad aver approfondito la recessione italiana ed aver ulteriormente indebolito la crisi del gettito invece che accrescerlo e a renderci poco credibili di fronte ai mercati, perché nel frattempo il debito pubblico aumenta invece che diminuire per effetto di tutto questo. Da una parte è vero, dall'altra in realtà il significato politico sottostante, poiché non mi risulta che i partiti che sostengono il governo Monti abbiano detto fin dall'inizio devi cambiare strategia, cioè devi abbattere il debito con cessioni patrimoniali e invece sul conto economico tagliare spesa per retrocedere meno tasse, non mi risulta che questa sia stata la richiesta che i partiti hanno fatto di cambio di segno al governo Monti. Adesso la loro posizione si traduce solo come il fatto che il governo Monti sta esaurendo la sua riserva di carica politica, per così dire, e quindi i partiti sono pronti all'operazione Quirinale di cui vi abbiamo parlato ieri. Io non so se sia veramente così, ma non credo che sia affatto giusto una riforma elettorale e un'operazione elettorale a breve per tentare di far rimanere nelle mani di maggioranze non politiche senza le idee chiare la condizione di un paese che resta non solo azzoppato ma prossimo a una crisi che potrebbe essere profondissima, con interventi internazionali del Fondo Monetario che io non auspico ma sono assolutamente dietro l'angolo, e che la cosa migliore di fronte a questo sia dire agli italiani lasciamo tutto com'è, con un bel governo tecnico, mettendovi in condizione con una bella riforma della legge elettorale non solo di esprimere le vostre opinioni rispetto allo schifo delle liste bloccate, che è sacrosanto, ma soprattutto che non ci sia la possibilità per nessuno di vincere politicamente, così torniamo a un governo tecnico, perché questa può apparire la soluzione solo a un paese disperato, tanto disperato di sé che dice in realtà vorremmo abolirle le elezioni e sarebbe meglio, perché così mettiamo tecnici a vita, ma siccome le elezioni non le possiamo abolire le celebriamo per finta, ma facciamoci una bella legge elettorale che consenta a nessuno di dire che può vincere facilmente, che vi rendete conto? È una disperazione estrema, ecco, rispetto alla coscienza di sé, a quello che si può davvero credere che gli italiani siano in condizioni di fare e di volere. Io credo che gli italiani siano in condizioni di fare e di volere molto. La loro forza è il loro lavoro, il loro risparmio, il loro patrimonio. E senza voler far chiacchiere su questo, ieri mi ha molto colpito, ve ne ho accennato perché ne avevo letto sulla stampa, una ricerca, gli imprenditori italiani alla crisi, che è l'ennesima, l'ultima ricerca delle tante che vengono messe in campo da un pezzo di studi dell'Italia, della Fondazione Nord-Est, sul Nord-Est, che secondo me da molti anni non contribuisce solo a farci capire meglio che cosa era diventato e diventerà. Il Nord-Est, cioè la parte del paese in cui oramai c'è la maggiore intensità industriale rispetto al Nord-Ovest, che è molto più avanti nei servizi come componente di valore aggiunto del PIL, e a un Nord-Ovest che ha visto la componente industriale andare in difficoltà nella parte piemontese. Invece il Nord-Est è diventato questo, da che era il famoso posto delle partite IVA e la via autonoma alla microimprenditorialità. Nel tempo è stato esattamente l'espressione di quella parte d'Italia che ha una intensità e una vocazione di export manifatturiero, che è quello che ci fa restare poi in piedi sui mercati internazionali. Bisogna rimanere agganciati a questa parte d'Italia, sapendo che è la parte più produttiva, che esporta di più, che malgrado i 30 punti di energia in più sul concorrente tedesco, i 20 punti in più medi che il collega tedesco rispetto al collega tedesco si paga di tasse, rispetto a tutto questo, eppure i successi sono buoni. Eppure questa ricerca di ieri ci dà un quadro che testimonia esattamente, purtroppo, la stessa ragione per cui apriamo con i Doors ogni mattina, e cioè un quadro di sfiducia degli imprenditori, sia per le condizioni della domanda interna ma anche per il peggioramento della domanda estera, che era molto forte, tanto che ci siamo detti bisogna su questo interrogarci e chiedere anche a chi è in ascolto di telefonarci, poi perché c'è un effetto oramai che si apre a forbici. Alcuni dicono che a furia di dipingerla troppo nera si contribuisce ulteriormente a una curva negativa delle aspettative. Io credo che sia un dovere elementare di chi fa informazione invece tentare di spiegarvi che i mercati internazionali hanno le loro ragioni per metterci nell'angolo, che l'intervento del Fondo Monetario è ancora esattamente come un anno fa e più di un anno fa possibile e ritenuto da alcuni necessario, che il meccanismo dell'euro potrebbe essere prossimo a un'esplosione finale, e che prima di dividerci in partiti se essere favorevoli o contrari bisogna tentare di spiegarvi tutto questo, e tentare di spiegarlo significa certo contribuire a più pessimismo, ma il pessimismo sta però nei dati di un mercato interno depresso come non mai, in redditi compressi delle famiglie e dei patrimoni. Ripeto sempre, se pensate a 20 anni fa, più 9% di prodotto industriale pro capite, di prodotto pro capite scusatemi, in 20 anni reddito disponibile a meno 4% rispetto a 20 anni fa, e dei 13 punti 11 se li è presi lo Stato che ci considera sudditi, tanto per cambiare. Allora, telefonate che poi diamo voce agli ascoltatori. Intanto tentiamo di capire meglio quali sono gli elementi emersi in questa, in questa ricerca della Fondazione Nord-Est sugli imprenditori italiani nella crisi, e abbiamo con noi Daniele Marini, che è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, che ringrazio. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei, Giannino, e agli ascoltatori. Allora, se dovesse dirci la dinamica temporale dell'accelerazione di questo pessimismo che si coglieva e si coglie in questa, in questa ricerca, è un pessimismo, diciamo così, che avanza con una progressività temporale molto accentuata, in ragione di che cosa? Oppure è una specie di deviazione standard verso il pessimismo trimestre dopo trimestre? Allora, detto che sono 12 anni che facciamo questa ricerca, che curo questa ricerca nazionale sugli imprenditori in Italia, dico subito che i dati di quest'anno sono in assoluto i peggiori in termini di fiducia da parte degli imprenditori italiani, nel senso che neppure nel 2008-2009, cioè quando si è paventata questa crisi, c'erano stati saldi così negativi sotto tutti i profili da parte delle opinioni, appunto, degli imprenditori, il che più che di sfiducia mi fa dire che forse il termine più giusto è disillusione, disincanto, cioè dobbiamo tenere presente che sono ormai 4 anni che viviamo in questa situazione di criticità, e ormai in qualche misura si potrebbe dire che la crisi non è un evento eccezionale ma è diventata la normalità. Però a fronte di questa situazione, quello che io colgo da questi risultati, di questa disillusione, è che a fronte delle tante promesse, delle possibilità di cambiamento, finora non si è visto nulla. Ed è questo l'elemento che mi fa dire che un conto è la recessione, e c'è la recessione ed è il problema, ma se alla recessione si aggiunge la depressione, che è un altro aspetto, se vogliamo, più psicologico, ma come noto che incide fortemente sulla dimensione economica, perché depressione significa chiusura in se stessi, incapacità di vedere il futuro, non riuscire a cogliere il futuro, e qui entriamo quindi in una dimensione che è più, per così dire, relazionale, è più di visione, di aspettative, che però, come sappiamo, incidono fortissimamente nelle scelte dell'economia. Ecco allora che questo è l'elemento che mi sembra francamente preoccupante, e del quale non ho il sentore che ai diversi livelli istituzionali, e questo non riguarda soltanto la politica ma riguarda anche le classi dirigenti più in generale, non ci si stia rendendo conto fino in fondo, cioè che nel momento in cui viene meno questa possibilità che le cose possano cambiare, perché questo è l'elemento di fatto, il quadro secondo me diventa, cioè, bisogna porsi una riflessione, che il problema non è soltanto acquisire, e questo è assolutamente fondamentale, credibilità nei confronti dei mercati esteri, degli investitori internazionali, che è la vera azione sul quale il governo Monti si è esercitato in questi anni, ed era, ripeto, dal mio punto di vista assolutamente fondamentale. Bisogna guardare anche quello che ho chiamato lo spread della fiducia, cioè all'interno, cioè riuscire a parlare anche agli imprenditori, tenere presente che al di là delle promesse e degli interventi che sono stati messi in campo, che possono essere più o meno condivisibili, ma che cercavano di dare una dritta alla riforma dello Stato, purtroppo questi segnali concreti non sono arrivati. E qui io credo che servono oggi, posto che dobbiamo capire che cosa succede da qua ai prossimi mesi, servirebbero per reinnescare anche un minimo di fiducia, pochi ma sensibili segnali concreti, e io li individuo in particolare sul tema della burocrazia, perché riuscire a snellire fortemente e incidere fortemente per esempio sulla burocrazia, quindi snellimento delle pratiche, minore vessazione da questo punto di vista, sarebbe già, ripeto, un sollievo per le imprese, tenendo presente che la burocrazia, le pratiche, tutto quello che ci va dietro, incide in misura proporzionale molto più grande nelle PMI, nelle piccole e medie imprese, piuttosto che nelle grandi imprese, che poi sono appunto il nostro tessuto produttivo. Senta, ma dovesse dirci a questo peggioramento del quadro di fiducia, cioè alla recessione si aggiunge la depressione, come ha detto lei, ma è un quadro di sfiducia che è anche disillusione profonda nell'euro, o prevale, come mi è sembrato di capire nelle parole che ho usato adesso, invece la disillusione per la mancata risposta italiana in questi anni, al fatto che noi siamo sempre di più in realtà nel mirino e le cose sono con un'intensità di crisi nostra che è peggiore di quella spagnola, perché ricordiamolo, per effetto del mix sbagliato e per effetto del fatto che noi cresciamo, abbiamo un output potenziale basso da molti anni, da prima dell'euro, per ragioni nostre, noi prendiamo più colpi di quelli che prendono gli altri quando le cose vanno male e andiamo più lenti quando le cose vanno bene. C'è anche la disillusione sull'euro, glielo chiedo perché vedo che oramai nella stampa ispirata direttamente al centrodestra questo diventa uno dei toni che cresce di giorno in giorno, cioè le aperture di oggi del Libero del Giornale, c'hanno i loro direttori schierati, benvenuti tra gli euroscettici, basta euro, cioè c'è una forte volontà di cavalcare questo clima dicendo agli italiani si stava meglio quando si stava peggio, perché non è vero che si stava peggio, ma non ci sarà l'inflazione, non ci sarà la svalutazione, l'iretta, ma anche gli imprenditori la pensano così? No, non la pensano così, nella grande maggioranza dei casi sicuramente non c'è più quella quell'afflato iniziale con il quale era partito l'euro e anche l'Unione Europea, ovviamente su questi temi in termini di aspettative. Oggi c'è meno afflato positivo, però la grandissima maggioranza, se non ricordo male, oltre 3 imprenditori su 4 ritiene che l'uscita dall'euro sarebbe sostanzialmente un danno fortissimo per il nostro paese, quindi da questo punto di vista direi che sicuramente l'euro rimane un punto fermo dal quale non si può tornare indietro, anzi di più, quello che dicono gli imprenditori su questo aspetto è che i problemi che noi abbiamo non sono generati tanto dall'euro quanto da problemi che abbiamo noi in casa e sui quali dobbiamo mettere mano velocemente. Questo è l'atteggiamento generale. E a me questo continua a sembrare in realtà, finché ci sarà una maggioranza tra chi produce reddito e offre lavoro che la pensa così, secondo me meglio è, perché questa a me sembra la ricetta vera e la diagnosi vera, non spetta a me dirlo, ma insomma più o meno chi studia l'economia ha il dovere di dire che è così, anche se è facile la semplificazione di facile consenso che oramai avanza nel dire ma che vi hanno buggerato, l'euro è stata una presa per i fondelli, non è così, cioè questo ricordare da parte dei politici che non hanno adempiuto agli impegni che erano impliciti ed espliciti nell'euro come è stato costruito e liberamente convenuto dall'Italia, che vi dicono poi, cari ascoltatori, ma perché vi volete preoccupare? L'inflazione è un augurio, è un regalo, è un auspicio anche per voi. Vi ricordate quanto stavate bene con l'inflazione? No, non è vero, l'inflazione è un'illusione per chi ha i redditi bassi e va a vantaggio dei grandi debitori, di chi è molto indebitato. Questo è l'inflazione. L'inflazione naturalmente è un regalo fatto al più grande indebitato, cioè allo Stato, come sempre, però se voi tornate in maggioranza vittime dell'illusione monetaria di credere che con l'effetto nominale cresca in termini reali il vostro reddito, sbagliate e rendetevi conto, c'è una trappola fatta di profonda anche malafede in chi vi tesse gli elogi del buon tempo che fu, perché non fu affatto un buon tempo, perché è lì la vera ragione per cui abbiamo perso tanti punti di competitività fottendo la gente con l'impressione nominale, capito, dell'inflazione, perché non corrispondeva affatto a valori reali. Quello che conta nelle ragioni di scambio internazionali, in questa grande gara mondiale che sarà per il nostro paese con la seconda vocazione manifatturiera, è quello il grande percorso su cui dobbiamo rimanere abbarbicati, credere in noi stessi, nelle nostre imprese, nel nostro valore aggiunto. Chi vi propone invece la via della svalutazione monetaria è come se dicesse: beh, in fondo, ma perché dobbiamo fare, perché dobbiamo lavorare tanto? Ma ci illudiamo, e poi con la svalutazione ci guadagna solo lo Stato, che vi dirà a quel punto che per risolvere il problema del debito bisognerà che vi faccia la patrimoniale. Ho visto però, Marini, che anche nella parte che, della ricerca in cui si testa l'opinione su istituzioni e politica, è vero che i consensi al governo restano molto forti. Ma quello che mi ha colpito è che ci sono consensi a figure istituzionali tradizionalmente forti che scendono in maniera molto rilevante. Come mai? Perché questo risponde a quello che dicevo in precedenza, e cioè di una forte disillusione e quindi distacco da parte degli imprenditori nei confronti delle diverse istituzioni. Ricordo che nella classifica gli unici che ottengono implicitamente e ovviamente la fiducia sono esattamente i piccoli e medi imprenditori, che peraltro però rispetto allo scorso anno calano circa di 10 punti, cioè siamo intorno al 60%. Dopodiché, se fino all'anno scorso l'unica figura istituzionale politica che otteneva la maggioranza dei consensi, e larga maggioranza dei consensi, era la figura del Presidente della Repubblica, questo da sempre, quest'anno purtroppo per la prima volta abbiamo un calo di circa di poco meno di 20 punti e si attesta intorno al 44% di fiducia. Che insomma 20 punti sono tanti. Sono tanti. Teniamo presente che poi tutte le altre istituzioni, sia quelle politiche, cioè del governo, le regioni e così via, sia quelle anche delle istituzioni economiche, la BCE, la Banca d'Italia, poi l'Unione Europea, le stesse associazioni degli imprenditori, toccano i punti, i livelli più bassi di questi 12 anni in cui testiamo le opinioni degli imprenditori, a segnalare appunto una scarsa fiducia del quadro generale. Ma d'altro canto, se pensiamo al nostro paese in questo momento e a quello che vivono gli imprenditori, la cosa mi sorprende, diciamo così, mi dispiace, ma sorprende fino a un certo punto. Abbiamo un quadro internazionale che è assolutamente volatile, non sappiamo che cosa succederà al nostro paese nel quadro europeo, così come non sappiamo cosa succederà alla Grecia piuttosto che alla Spagna da qui nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, e quindi viviamo nell'incertezza totale. Ma se poi guardiamo al quadro politico in Italia, e anche qui gli elementi di certezza sono anzi elementi di incertezza. Andremo alle elezioni o meno in autunno o nel 2013? Tra l'altro su questo punto gli imprenditori, nella grandissima maggioranza dei casi, vorrebbe che il governo Monti rimanesse in carica fino al 2013, quindi con l'idea che possa cercare di fare quelle riforme che sono urgenti e necessarie per rimettere in piedi lo Stato. Non sappiamo se a queste elezioni quali saranno gli schieramenti politici, quali saranno le leadership in campo, non c'è uno straccio di programma, diciamo così, del cosiddetto dopo Monti, che è quello che, come noto, allarma un po' tutti gli investitori internazionali. I mercati, sì. E del resto, quindi, questo dato corrisponde... questo quadro di incertezza genera questa disillusione, questa sfiducia. E mi volevo traguardare a questo anche il fatto che la stessa Germania inizia a cominciare, seppure non paragonabile per intensità e durezza, fenomeni di incremento della fiducia, e l'indice IFO luglio fiducia ha registrato un calo che lo porta ai minimi da 28 mesi a questa parte. È stato un calo molto più forte di quello che si aspettavano i mercati, che è sceso da 105,2 a 103,3. Quindi il forte rallentamento dell'ottimismo tedesco, e ci si aspetta un rallentamento anche nell'indice, quello del purchase manager, sugli acquisti industriali, che di cui si resta in attesa dopo quello invece di settore sui servizi lunedì, che anche questo ha fortemente deluso. Cioè anche in Germania ci si inizia a preoccupare. Chissà che questa consapevolezza non sia uno dei segni che possa far mutare direttrice al no tedesco. Io credo di no, francamente, perché purtroppo l'accentuarsi degli elementi di sfiducia in Germania porta per converso nei sondaggi politici a un rafforzamento del no agli aiuti per effetto della paura, e quindi da questo punto di vista è un avvitamento negativo. Comunque sentiamo una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Una telefonata di Daniele da Verona, prego Daniele. Sì, buongiorno, io telefono, faccio un intervento collegandomi a uno spunto che aveva dato lei all'inizio. Sì. Una piccola testimonianza personale: sono stato in Francia per una settimana per turismo e guardando i telegiornali in albergo, insomma, uno guarda, no? Sì. Guarda, cioè, che sta collegato, guarda che tempo farà, così. Ecco, le notizie sull'economia erano minime. Mi ha colpito perché da noi qualunque telegiornale o qualunque giornale apre e i telegiornali stanno mezz'ora. E che cosa ha pensato? Che i francesi danno minime cose perché stanno meglio e perché non pensano di essere scalfiti dall'eurocrisi? Guardi, o perché è una strategia positiva che non crea depressione alla loro? No, allora io non so cosa pensare, perché credo che siamo tutti estremamente frastornati dal primo all'ultimo. Vediamo che ci alziamo la mattina ormai da anni e non vediamo una via d'uscita, non sentiamo da anni una notizia positiva, quindi anche la sensazione che le terapie che vengono adottate siano vane, sbagliate, vane. Abbiamo la sensazione che quando non abbiamo a che fare con persone disoneste e incompetenti, e ce ne sono ahimè tante, credo, abbiamo delle persone che stanno tentando ma non hanno neanche l'umiltà di dire stiamo tentando, dicono andrà bene così, ma in realtà ripete da anni che non c'è un e poi la realtà si smaschera queste intenzioni, e quindi dice alla fine noi insistiamo in sistema, ma questo poi ci avvita nella depressione. È un'opinione, io non lo so, dipende da come lo si fa, e questo capisco, però si diventa una valutazione soggettiva che è un po' inaccettabile, perché qualcuno inizia a dirmi sì, però tu esageri e basta. I dati però sono quelli poi di cui ci parla Marini, sono tutti i dati di cui gli operatori economici, gli imprenditori, nel calo degli ordinativi del mercato interno, nel peggioramento della domanda estera, non si può che dire noi com'è che continuiamo ad andare sempre peggio degli altri. C'è un mix di decisioni sbagliate, c'è lo Stato che prende ma lo Stato non cede i suoi attivi per riparare al debito che ha fatto lui e non noi. Ecco, queste sono le ragioni per cui a lungo andare, prima di sbattere la testa, è chiaro che la depressione viene, ma non parlarne e non tentare di affrontarla a me sembra sbagliato. Con noi collegato il direttore del Gazzettino, che saluto e ringrazio, Roberto Papetti. Buongiorno Papetti. Buongiorno. Posso chiederti, tu diciamo così, nella grande confronto tra chi dice, c'è chi esagera con la depressione a dipingere tutto nero, naturalmente quelli come Giannino, e c'è chi dice invece bisogna dare al lettore, all'ascoltatore, al telespettatore segnali di speranza, perché anche così si contribuisce a creare un clima di fiducia. Tu come pensi che l'informazione debba in realtà declinare il suo dovere? Io penso che l'informazione deve raccontare quello che i giornali, i giornalisti percepiscono della realtà, e quindi la realtà in questo momento è, come del resto emerge anche da questa indagine della Fondazione Nord-Est, una realtà fatta, per quanto riguarda il mondo dell'imprenditoria, di recessione, di depressione, e purtroppo noi questo vediamo e questo dobbiamo raccontare. Altri hanno la funzione eventualmente di instillare gocce e segnali di ottimismo, più con i fatti che con le parole, nella classe imprenditoriale o comunque nella società. Io così la penso. E confermi che intorno a te senti nel Nord-Est quello di cui ci parlava Marini, che si trova nella loro ricerca, cioè effettivamente il quadro è tanto ispirato alla negatività quanto non l'era mai stato da 16 anni a questa parte? Assolutamente sì, ci sono anche dei tratti psicologici importanti che riguardano il Nord-Est, che in una certa misura Daniele Marini anche nell'introduzione alla sua ricerca faceva notare. Per esempio sta venendo meno il senso dei sacrifici. Questo pezzo di territorio del paese, come è noto, è stato protagonista di una crescita tumultuosa negli ultimi 20-25 anni, ma era chiaro che cosa si facevano dei sacrifici per cosa? Cioè si usciva da una situazione di povertà e si creava un mondo nuovo, una realtà di benessere diffuso, si è andati alla conquista dei mercati internazionali e per questo obiettivo si sono fatti anche molti sacrifici, certo si è creata anche molta ricchezza, ma si sono fatti anche molti sacrifici. Ecco, questa dimensione è scomparsa, non si capisce più perché e se vale la pena e se ha un senso impegnarsi, e quindi questo ovviamente aggiunge al quadro dei dati economici un elemento negativo ulteriore. Questo è un dato che si percepisce molto parlando con gli imprenditori di questo territorio, tra l'altro imprenditori che molti dei quali, essendo imprenditori di prima o di seconda generazione, per la prima volta si trovano a fare i conti con una crisi così prolungata e con una crisi che è insieme economica e finanziaria. Questo li rende ancora molto più incerti, molto più insicuri e molto più negativi. Il fatto che manchi una prospettiva ai sacrifici che si fanno, manchi una luce in fondo al tunnel, è una chiave secondo me che Papetti azzecca e ci consegna, perché un conto è procedere acquisendo la consapevolezza che era sbagliato dire che noi non saremmo andati nei guai, capite quello che il governo Berlusconi vi ha ripetuto per anni, altro conto è poi iniziare a fare manovre che si affastellano come quelle del 2011, le quattro manovre triennali cambiando i governi, altro conto è andare ulteriormente avanti sulla strada e trovarsi in condizione che è esattamente quella di prima, anzi più prossima ancora, e non per colpa del governo in carica ma per le condizioni internazionali e per la gravità del debito italiano, più prossima ancora a una crisi che potrebbe essere con l'intervento del Fondo Monetario di quanto non fosse un anno fa. E questo poi a un certo punto dice vabbè, ma allora dove stiamo, perché tutto questo, che cosa ci porterà la compressione del patrimonio che stiamo intaccando per sostenere un reddito disponibile in diminuzione. Questo credo anch'io sia una delle spiegazioni, anche l'indice di fiducia delle famiglie italiane nei minimi da 16 anni, quello rilevato dall'Istat, ed è una fotografia tra questa imprese come ci viene data dalla ricerca della Fondazione Nord-Est e l'indice della fiducia dell'Istat ai minimi da 16 anni, che è la fotografia di un paese che inizia a essere profondissimamente scosso in alcune delle sue certezze che da sempre ispiravano poi invece la continuità dell'impostazione, direi proprio antropologico-psicologica degli italiani. Siamo in presenza di una rottura di continuità molto molto molto profonda, e anche per questo secondo me che poi ci sono tutte le caratteristiche di una rottura di continuità della rappresentanza politica in tutto uguale a quella che ha fatto finire la Prima Repubblica. Sentiamo qualche telefonata cominciando con Walter che ci chiama da Firenze. Prego Walter. Buongiorno, buongiorno a tutti. La fiducia secondo me negli imprenditori sta calando per il semplice motivo che ci si sta rendendo conto che questa metodologia di lavoro non consente più di cambiare, ci stiamo abitando, la burocrazia, i processi burocratici sono infinitamente esosi, inefficaci, inefficienti, e quindi nonostante tutto l'impegno che l'impresa ci mette, insomma, veniamo tirati giù per i piedi. Io credo che in questo momento non ci sia una terapia di salvaguardia, l'unica soluzione è darci veramente un taglio netto, fare una terapia veramente drastica. Lo Stato è come se ci fosse entrato un cancrena a un braccio, bisogna tagliarlo perché altrimenti non c'è soluzione, moriamo tutti. E io questo lo vedo nell'elezione di un'assemblea costituente che rifondi da capo normativamente ed amministrativamente lo Stato e che nello stesso tempo all'entrata in vigore delle nuove costituzioni, dei nuovi codici, tagli completamente quella matassa inesplicabile di norme che sono state fatte fino ad oggi e che rendono impossibile di fatto anche per i politici capaci e di buona volontà di... Lei dice se non si mette mano a poteri più adeguati con i tempi rapidi dei mercati non se ne esce. Naturalmente però l'iter che lei disegna è il classico esempio delle arretratezze delle procedure e dei tempi politici rispetto a quello che serve. I mercati globalizzati, che io non voglio mitizzare, ma sono il mondo in cui viviamo e che dettano i tempi, vivono questo contrasto che alcuni lo definiscono con la democrazia. Per esempio Giulio Tremonti ormai scrive libri e teorizza che vi sia un contrasto irriducibile tra non i riti ma la sostanza della democrazia rappresentativa e dello Stato, che lui è tornato a rivalutare, lo Stato nazionale, rispetto ai tempi collassati dei mercati e della globalizzazione. Io credo che non sia così. Io credo che la politica avrebbe dovuto adottare, man mano che questo avveniva nel tempo, tempi e procedure del tutto molto coerenti, simili a quelle che sono dei meccanismi con cui il mondo va avanti oggi, altrimenti sareste tagliati fuori dalla storia. E questa è un po' la fotografia dell'Italia e dell'Europa, il cui declino è scritto nella loro curva demografica, nel fatto di credere di poter prendere decisioni con procedure che durano anni. Prendete questo piccolo esempio: il Consiglio di Stato che adesso accoglie l'istanza di un parcheggio nel centro di Milano, per carità, e stamattina i milanesi si trovano con l'area C che viene sospesa, non si sa per quanto, non si sa a questo punto con che efficacia, quando tornerà a essere in vigore, perché nel frattempo verrà intaccata. Faccio questo esempio non perché voglio criticare il Consiglio di Stato, ma perché è il centomilionesimo esempio dell'impossibilità di un paese in cui le impugnative mettono a rischio e in forse quel poco di certezza residua di regole pubbliche e di certezza dei contratti tra privati che c'è. Quindi è un paese che vive alla giornata, ma dice, anche tra chi come l'ascoltatore è convinto che oramai troppe regole, troppe procedure, non si può decidere, anche chi vince le elezioni, chi fa, come si fa a rimettere in piedi un paese con le procedure di questo tipo? Però se noi ci pensiamo, una costituente significa mettersi lì e un anno, due anni, tre anni, ecco, ed è il paradosso che si ripete nel nostro paese. Altri hanno procedure, sempre figlie del vecchio, della vecchia dottrina del suffragio universale, che nel tempo si eterna con procedure. C'è chi dice che la Costituzione non si cambia, per esempio, non va cambiata, è sacra. Pensate questo refrain quanto è stato forte in tutti questi ultimi anni, perché è sacra. Ricordate Scarluigi Scalfaro, il movimento Libertà e Giustizia guidato da Sandra Bonsanti e Zagrebelsky, che hanno tanto più incistato in questa posizione perché convinti che Berlusconi fosse l'eversione, da questo punto di vista dovesse essere fermato coi sacri principi della prima parte della Costituzione, che naturalmente sono purtroppo storici e storicizzati come tutto nella storia che invecchia, e invece noi li consideriamo sacri. E allora però poi il mondo va avanti e noi restiamo col culo sui talloni. Devo dirvi che ho rimesso i dorsi, invece vengo anch'io, perché eravamo a 513, siamo saliti a 517, pochi punti, però stamattina Iannacci, dal punto di vista cabalistico non ha funzionato in questa oretta. Speriamo però nei giorni prossimi di poter continuare a verificare. Io sarò per così dire imparziale tra il sorriso paradossale di Enzo Iannacci, vengo anch'io, no tu no, e invece il refrain che da mesi ci ha però aiutato a capire che esistono delle ragioni per cui si torna sopra quota 500. Ricordo a tutti che due settimane stabili sopra quota 500 significa che poi cambieremo canzoncina, metteremo quella di Cristina D'Avena su Arriva Cristina, Cristina Lagarde, con gli elicotteri del Fondo Monetario. Speriamo di no. E l'Italia non potrà dirvi che non è colpa sua, eh? L'Italia non potrà dirvelo, perché il bilancio della politica dovrà essere questo, sempre che voi non vogliate, come sempre, graziarla. Antonio, dalla provincia di Ferrara, come la pensa Antonio? Buongiorno dottor Giannini, buongiorno ai suoi ospiti, ai radioascoltatori. Per quanto mi riguarda, lo Stato italiano non deve chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale, perché deve sistemare tante di quelle beghe interne e poi essere consapevole se si chiede un prestito, se si è in grado di restituirlo, se no le future generazioni, i cosiddetti statisti che pensano a loro, ma pensano a indebitarlo o a farli stare un po' meglio di noi? Purtroppo per il momento non possiamo indebitarlo, non Monti ma quelli di prima. Lei, devo solo correggere, su un punto, non creda che saremo noi a chiederlo il prestito del fondo. Se arrivano al fondo, non si può dire di no. Non so se è chiaro, perché vuol dire che sei obbligato a dire di sì, perché vieni considerato altrimenti non più solvibile, e ti devi impegnare a quel punto coattivamente a un programma durissimo, perché il giudizio diventa che tutti i programmi che hai intrapreso per i fatti tuoi non sono stati adeguati a risolvere il tuo problema. E il nostro è il debito, e il debito cresce, e cresce con una spesa pubblica che non è diminuita e con le tasse che abbiamo alzato. Questa è la particolarità della nostra condizione di fronte agli altri paesi, rispetto al quale, ripeto, la cattiveria dei tedeschi, l'egoismo, gli errori di costruzione dell'euro, tutto quello che volete voi, che è fondato, però non hanno alcuna responsabilità, perché la colpa di questo è della politica italiana. Maurizio, dalla provincia di Venezia, come la pensa Maurizio? Buongiorno dottor Giannino, lo sto ascoltando, io la faccio breve. Io sono pensionato, ho un figlio di 20 anni al quale volevo in qualche maniera costruire un futuro. Io ho sempre lavorato nel mondo dei trasporti marittimi e avevo intenzione di aprirgli un'agenzia marittima per far assistenza a navi passeggeri. Orbene, dottor Giannino, fra burocrazia, tasse, comitati popolari, eccetera, eccetera, eccetera, ti cadono le braccia. L'euro non c'entra, perché a mio parere potevano anche esserci ancora i ducati della Serenissima Repubblica, ma in questo quadro generale, dove come ti muovi, trovi qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote, e sono gli stessi che poi andresti ipoteticamente ad assumere, che vanno con i cartelli a dire no alle grandi navi, no a questo, no a quello, allora a questo punto qui una componente del malessere del Nord-Est è anche questa. Io credo Maurizio che lei è stato chiarissimo e abbia ragione. Pierluigi da Brescia. Buongiorno Oscar. Eccoci qua. Saluto a tutti gli ascoltatori. Io volevo testimoniare che secondo me la realtà dei fatti è completamente diversa dalla direzione che sta prendendo il nostro Stato e il nostro governo. Non si può continuare in questa direzione di tassare continuamente gli imprenditori e tutti quanti. Io visito molto spesso le aziende del Nord-Est e le posso garantire che le statistiche non sono quelle che vengono pubblicate. Nel senso che secondo te le cose stanno peggio? Molto peggio. Il fatturato ha una discesa rispetto all'anno scorso almeno del 40-50%. Quando si parla del 2-3% di riduzione dei consumi mi viene da ridere. Non so dove vadano a prendere queste statistiche. Naturalmente, sai, le linee medie e mediane sono diverse dai punti di picco che tu registri. È un fatto che questo che ci sta, per così dire, esperienza sua personale alla mano, Pierluigi da Brescia ricordando, è un fatto che viene confermato dal deterioramento dell'intensità degli andamenti negativi. Si sta accrescendo, per questo io ho l'obbligo di dirvi, per esempio, il governo è in ritardo nell'aggiornamento delle previsioni di PIL e di reddito pro capite in calo quest'anno, pensa che il governo è ancora fermo almeno 1,4% di PIL, si è molto arrabbiato quando Confindustria ha adeguato almeno 2,4% la previsione, però tutti gli indicatori mese per mese che si raccolgono dall'economia reale secondo me danno ragione a chi, non per cattiveria o per fiducia nel governo, ma per realismo, perché fa il suo mestiere di ricercatore, sta registrando questa accelerazione dell'intensità della crisi, che è gravissima sul mercato domestico per il 75% di PIL di offerta e consumo per il mercato interno, lì è proprio gravissima. Perché lì l'intensità di tre fenomeni, la crescita pretesa dello Stato, il credit crunch e il fatto che tutti sono cattivi pagatori, porta a una moria. Sono 1500 le chiusure di impresa al giorno, in media si sono arrivate a 1500. Naturalmente a fronte delle chiusure ci sono le aperture, ma il saldo comunque sarà di circa, a questi ritmi, di 120-130.000 imprese in meno in un solo anno nel nostro paese. Ecco, questa è la realtà terribile con cui siamo alle prese e secondo me, io ringrazio Roberto Papetti ma aderisco alla sua lettura, l'informazione deve fare il suo mestiere. Io non mi sento un agente partigiano a tentare di descrivere questa condizione e a ricordare a voi tutti che cambiare dal basso si può. L'Italia ha ancora tutte le risorse patrimoniali, di impresa, di valore aggiunto per scommettere di non essere un paese declinante che diventa al più solo una mecca per turisti, e non riesce a fare neanche questo perché si dà la zappa sui piedi allontanando 50.000 barche turistiche. Siamo riusciti a fare anche questo con la tassazione sulle barche. Va bene, allora a questo punto posso solo dirvi a domani. (Susurra)